Dance Revival con DJ Vulpis. Un buon ascolto a tutti quanti voi. Voglio un boom cia, che fa male, cerco un boom cia, irregolare un boom cia, che faccia scalpore un boom cia, esagerare, capri due ora, formula la tesi sulla stioma, musica mia padrona, è un'orchestra di rumori, M2O mette cuori dentro i vostri cannoni. Illuminati, i precursori, chiuditi in casa che stasera siamo usciti su una ruota senza freni. Boom, cia, lo fa il tamarro delle popolari. Boom, cia, lo fa la bimba con i miei ormoni. Boom, cia, lo fa la cassa con l'urlante. Boom, cia, il mimo file Capri Ponte. Voglio un boom, cia, che fa male. Scalpore un boom cia, cia. Esagerare, capri due ora, formula la tesi sulla stioma, musica mia padrona, è un'orchestra di rumori, M2O mette cuori dentro i vostri cannoni. Boom cia, boom cia, boom cia. Tu l'as mis, mon trésor de l'esprit. La vie c'est fantastique, pourquoi tu te la compliques? Bienvenue à tu l'as mis. SMS con la vie c'est fantastique. Siete sempre collegati su Radio Live Station. Questo è il programma Dance Revival. La vie c'est fantastique. Pourquoi tu te la compliques? SMS su Radio Live Session. Passiamo ora a un altro grande della musica dance, Molella con Discotheque People. It's time for the ragga sound of the Discotheque People. Now it's time to make your body move. Clap your hands to the rhythm. Move your body. Dance, move to the left. Dance, move to the right. Dance, move to the left. To the left and dance. Move to the right. To the right. Boom, shake a boom, shake a boom. To the left. Boom, shake a boom. Shake a boom to the right. Boom, shake a boom, shake a boom to the left. Boom, shake a boom, shake a boom to the right. Come on now. Bolella con Discotech People, sempre su Radio Live Session. E adesso passiamo a un altro grande della dance che ci ha fatto sognare. Gigi D'Agostino con Un Giorno Credi. D'Agostino con una fantastica canzone di Edoardo Bernato remix Un giorno credi. E adesso passiamo a Prezioso e Marvin con Bonjour. Bonjour. E allora lui dice bonjour, noi diciamo buonasera a tutti quanti gli ascoltatori. Dance Revival, questo era Prezioso e Marvin. Adesso passiamo a un'altra hit del 2001 con Naive, Joyce. A fight. I know you never, never, never get the rhythm, man.

Mad con Welcome to the Jungle e anche in the City. Passiamo sempre sul 2001 con i Sound Lovers, Living in Your Head. E adesso passiamo a un altro pezzo targato sempre 2001 con 666 Dupa Dupa Fly. Base to beat, drop to base to beat. rock the bass goes to the boys, super duper fly. Bring the bass, bass to me, the drum, bass to me, boom, boom. Kick back, bass to me, the drum, bass to me, boom. Kick to the back, bass to me, the drum, bass to me, boom, boom. Kick back, bass to me, the drum, bass to me, boom. Supa Dupa Fly 666, vi ricordiamo che siete sempre in compagnia di Radio Live Session, questo è il programma Dance Revival, e Mario Più con Techno Harmony. Mario Più e Principe Maurice, i grandissimi della dance e della techno. Techno Harmony con Principe Maurice, siete sempre in onda su Radio Live Session, questo è il programma Dance Revival. Passiamo adesso a una ragazza che ci ha fatto ascoltare, ci ha fatto ballare delle bellissime canzoni, Erika con Relation. Da da da da da. Con Relation su Radio Live Session. Ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori l'appuntamento di domani col programma Hard Style dalle ore 21 alle ore 22. E adesso andiamo avanti col Dance Revival. Mauro Picotto con Comodo. Mauro Picotto con Comodo. E passiamo alla prossima canzone. Club Bizarre. Brooklyn Bounce con Club Bizarre, anno 2002, su Radio Live Session. La Bizarre, attenzione, da questo momento facciamo un passo indietro, andiamo negli anni 2000 con la fantastica e favolosa, bellissima Carolina Marquez con Super DJ. Super DJ, my big DJ. Carolina Marquez con Super DJ, siete sempre in compagnia di Radio Live Session, questo è il programma Dance Revival. Adesso andiamo avanti con un grandissimo disco, un grandissimo pezzo dei Madras. Madras, adesso facciamo un altro salto indietro, torniamo agli anni 2000 con Gigi D'Agostino, L'Amor Toujours. Thank you. Gigi D'Agostino con l'Amor Toujours, grande disco dance che ci ha fatto ballare e continua a far ballare. Passiamo adesso a un altro grande, come prima lo ripetiamo, Mr. Molella. It's a grave. I wanna show you my Jericho now. Come in my mind and you will find my land. You can tell your friend they can come and leap into Jenny. It's my world. Molella su Radio Live Session, adesso andiamo avanti con DJ Ross, Emotion. Allora ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori che sono connessi l'appuntamento per domani sera alle ore 21 con il programma Hardstyle. Siete sempre in compagnia di Radio Live Session, questo è Dance Revival. Sometimes I feel you're gonna break down and cry. I wanna see the moonlight dips in your eyes. take my hand so we can play. Moving on, I'm moving on, I'm moving on. DJ Ross con Emotion su Radio Live Session a chiudere il programma Dance Revival. Salutiamo e ringraziamo allora tutti quanti gli ascoltatori che sono stati in linea o streaming fino a questo momento. DJ Vulpis Demo vi danno l'appuntamento per domani sera alle ore 21 col Style Art Body, il programma di musica art style. E chiudiamo con un disco così speciale dedicato a tutti quanti voi, Village People. Yeah.